voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Sergio Zingarelli e Rocca delle Macie. Dal cinema alla scoperta del Chianti classico. Di Alessandra Tedesco e Adriano Palazzolo. La storia che vi raccontiamo oggi parla di vini e arriva dal cuore del Chianti, in una tenuta, quella delle Macie, che dà anche il nome all'azienda. Nasce poco più di 40 anni fa, precisamente nel 1973, dalla volontà e dal sogno di Italo Zingarelli, stuntman del cinema e poi aiuto regista e produttore. Dopo aver calcato sette di un colossal cinematografico e aver lanciato una delle coppie più famose del cinema italiano, Italo cambia direzione. A raccontarci come sono andate le cose è il figlio del fondatore, Sergio Zingarelli, oggi a capo di Rocca delle Macie. Innanzitutto Rocca delle Macie nasce grazie a un sogno che mio padre aveva nel cassetto, quello di avere un'azienda vitivinicola. Però mio padre nasce in tutt'altro settore, lui è nato e cresciuto nel mondo del cinema. A 20 anni, quando praticamente non aveva lavoro, ha trovato una persona che era coinvolta nel mondo del cinema e l'ha spinto a lavorare. Ha iniziato come stuntman nel Quo Vadis nel 50, poi nel 54 ha fatto il suo primo film come direttore di produzione e nel 58, a 28 anni, ha prodotto i suoi primi film in Spagna. È stato uno degli avventurieri andato in Spagna a fare qualche film. Poi nel 64 ha aperto la sua azienda di produzione cinematografica e dopodiché, insomma, diciamo, la situazione della nostra famiglia è andata un pochettino meglio finché è arrivato agli anni 70, che ha avuto così l'abilità o la fortuna, ma sicuramente l'abilità, di iniziare un filone molto importante. Praticamente ha lanciato la coppia Terence Hill e Bud Spencer, ha prodotto Lo chiamavo Trinità, continuavano a chiamarlo Trinità, Più forte ragazzi, e finalmente dopo questi grandi successi, continuava a chiamarlo Trinità, a tutt'oggi è il più grosso successo di tutti i tempi del cinema italiano, è il film più visto in televisione. E quindi nel 73 finalmente aveva le possibilità di andare a fare un po' di shopping ed è andato la nostra famiglia romana e si è dedicato soprattutto a seguire qualcosa in Toscana, finché un giorno è arrivata questa fattoria di circa 70 ettari che si chiama Le Macie, l'ha comprata e nello stesso anno ha comprato un'altra fattoria sempre a Castellina in Chianti, quindi nel centro della storica del Chianti classico, un'altra fattoria si chiama Sant'Alfonso, per un totale di 200 ettari, senza vigna, senza cantina, e praticamente da lì ha iniziato il suo grande investimento. Dopo l'acquisto di un'area di 200 ettari, però, bisogna porre le basi per l'azienda e Italo Zingarelli fa un grande investimento in termini economici. Costruisce la cantina e ristruttura il Borgo delle Macie, che risale al XIII secolo. Così si arriva al primo punto di svolta per l'azienda, datato 1979. Commercialmente l'azienda è nata dal 79. Nel 79 papà ha avuto subito l'abilità di entrare subito nel mondo del vino, ha iniziato a partecipare a tante attività in Italia e all'estero, soprattutto con una rivista che si chiama Città del Bere, che era la prima rivista che ha iniziato a organizzare degli eventi molto importanti all'estero di presentazione dei vini italiani di qualità. Mio padre è stato subito, malgrado un'azienda molto giovane, riuscito immediatamente ad entrare in questa moto, quindi ha trovato subito importatori in Inghilterra, in Germania e un distributore in Italia fino all'84-85. Altro anno molto importante, perché nell'85 ha deciso di costruire lui stesso la rete commerciale in Italia. Nel frattempo mio padre lavorava sia nel mondo del cinema che nel mondo del vino, però piano piano tutte le sue energie, ma soprattutto la sua passione, era iniziata a trasferire sempre di più verso il vino. Nel 1986 intanto arriva in azienda anche il figlio di Italo, Sergio, che ci sta raccontando questa storia. Sono anni importanti. 2 anni prima viene acquistata la fattoria di Fizzano, risalente all'XI secolo, con oltre 60 ettari di terreno. Intanto l'azienda cresce nel fatturato, si espande e diversifica il suo business. Praticamente quando sono entrato nell'86 c'erano 4 persone in ufficio, più avevamo un direttore commerciale, e oggi l'azienda, e più avevamo alcune persone chiaramente che collaboravano nei campi. Oggi siamo circa 130 persone. e abbiamo varie attività, insomma abbiamo sicuramente l'aspetto vino è la più importante, però abbiamo anche ristrutturato un altro borgo, quello di Fizzana, comprato nell'84, dove abbiamo aperto un relè di campagna con 22 appartamenti, quindi facciamo anche attività ricettiva, di ristorazione. E poi abbiamo a fine anni 90 e inizio 2000 abbiamo fatto anche due investimenti in Maremma, abbiamo comprato due poderi in Maremma dove abbiamo iniziato anche lì a piantare vigneti, abbiamo circa 55 ettari fra vigneti per produrre morellino e vermentino, e quindi insomma adesso l'azienda è diventata piuttosto importante. Vigneti, fattorie, borghi e cantine danno modo a Rocca delle Macie di fare durante gli anni 80 un percorso che grazie alle due generazioni della famiglia, fianco a fianco in azienda, arriva fino agli anni 90, momento del boom. Negli 90 innanzitutto abbiamo iniziato a girare molto l'estero e abbiamo avuto la fortuna anche qui di trovare dei partner esteri, dei importatori esteri molto importanti, soprattutto nell'89 abbiamo trovato il nostro importatore americano, che oggi è diventato per noi il punto di riferimento di Rocca delle Macie. Tanto è vero, insomma, io mi ricordo i primi anni che andavo in America, che parlavo dell'azienda Rocca delle Macie, mi domandavo ma che azienda è, un'azienda privata, pubblica, un consorzio, una cooperativa, io sono solamente un'azienda privata. Oggi Rocca delle Macie è diventata in America una delle 4-5 aziende toscane più conosciute, e insomma adesso penso i miei figli dovranno fare un lavoro un po' diverso di quello che ho fatto io 20 anni fa. Però ecco, quindi c'è stata una grande espansione anche in Canada, insomma oggi lavoriamo un po' in circa 50 paesi, in più di 50 paesi all'estero, però lo zoccolo duro per noi è sempre stata l'Italia. Questo percorso di continua crescita ed espansione però ha una battuta d'arresto. Come tanti nomi del settore, anche questa azienda accusa i colpi della crisi che ha cambiato fatturati e mercati di riferimento, come ci racconta ancora Sergio Zingarelli. La crisi ha cambiato un po' la geografia della distribuzione delle vendite anche del Chianti Classico. Adesso sono anche presidente del consorzio del Chianti Classico. Chianti Classico, nei primi anni 2000, il 40% del Chianti Classico veniva venduto in Italia, oggi si vende poco meno del 20%. Quindi è comunque, lavoriamo più o meno sui stessi quantitativi, quindi evidentemente l'estero ha avuto una grossa espansione e più o meno noi siamo andati con le stesse proporzioni, eravamo intorno al 40% di vendite in Italia intorno ai primi anni 2000, adesso siamo intorno al 25%, quindi 75% all'estero, con un peso piuttosto importante per noi, per i due paesi nordamericani, ma poi lavoriamo poi in tutta l'Europa, lavoriamo in parecchi paesi dell'Asia. Abbiamo un'ottima distribuzione in alcuni paesi anche del Sud America come Brasile, Messico, Colombia, Perù, insomma altre. Insomma, quindi diciamo un'azienda che in poco tempo si è data molto da fare. Quindi, oggi abbiamo una struttura, presidente, è entrata in azienda anche la terza generazione, anche i miei figli e mio nipote sono entrati a lavorare in azienda, quindi abbiamo già un'azienda familiare anche in espansione come famiglia. Nel 79, primo anno di effettiva produzione, il fatturato dell'azienda è stato di 1 miliardo di lire. Poi la crescita è stata continua fino al 95, quando in famiglia si è deciso di abbandonare la quantità per concentrarsi sulla qualità. Un investimento importante, fatto in un momento storico difficile, che però ha dato i suoi frutti. In quegli anni abbiamo fatto una scelta di decisione molto importante, di continuare a crescere dal punto di vista quantitativo o fermarci lì e cercare di riposizionare l'azienda sempre a livello qualitativo sempre più alto. Abbiamo scelto la seconda strada, quindi abbiamo addirittura iniziato a fare una riconversione dei vigneti che mio padre aveva piantato nei primi anni 70, vigneti che erano ancora in produzione, li abbiamo estirpati, sostituiti con vigneti che ci garantiscono oggi una qualità delle uve, che poi è la materia prima fondamentale per produrre un grande vino, e oggi finalmente siamo, oggi già da 10-15 anni l'azienda sta avendo una grande crescita qualitativa. Diciamo il fatturato negli ultimi anni sta crescendo, abbiamo avuto una serie di anni abbastanza poco fortunati, chiamiamoli così, proprio all'inizio quando stavamo facendo il grande lancio è arrivata questa crisi nel 2009, 2011, 2012 che ha colpito noi, ha colpito parecchi, ci ha creato qualche problema. Malgrado questo abbiamo deciso di continuare i nostri investimenti scommettendo sulla politica che stava intraprendendo l'azienda. L'anno scorso l'azienda ha chiuso con un fatturato di 21 milioni di euro, mentre il 2016 è iniziato con una crescita a doppia cifra. Sergio Zingarelli, che ci sta raccontando questa storia e che è anche il presidente del consorzio Chianti Classico, per il futuro ha le idee ben precise. Ma uno dei due obiettivi è di diventare sempre di più una delle aziende, lo siamo già, una delle aziende di riferimento della vitivinicola della Toscana. È un'azienda che naturalmente sta andando molto sempre di più sul Chianti Classico, anche se abbiamo dei nostri investimenti in Maremma, però l'azienda sta diventando sempre più un'azienda di riferimento del Chianti Classico. Chianti Classico noi ci ho scommesso io personalmente anche da 4 anni adesso, che tra le altre cose sono il presidente del consorzio del vino Chianti Classico, e abbiamo introdotto questa nuova categoria di Chianti Classico, la Gran Selezione. Siamo stati una delle prime aziende a produrre immediatamente, a presentare sul mercato un nuovo vino, una produzione piuttosto limitata. I primi anni abbiamo fatto 6.000 bottiglie. Però il vino sta andando molto bene, è stato classificato tra le medie delle varie guide italiane a essere l'ottavo miglior vino rosso italiano. Pensiamo di, grazie a questo vino e alla riserva di Fizzano, che è l'altra nostra gran selezione, di far crescere ancora di più la qualità, l'immagine, di essere sempre più un'azienda di riferimento del Chianti Classico. Avete ascoltato Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.